14. I contorni delle cose affiorarono, rischiarati dal sentore dell'alba. Un tavolo, due panche di legno, gli alari del camino, il baule. Il ritmo dei respiri era una placida risacca. Percepì l'odore dei corpi sotto la pelliccia d'orso, il calore della moglie e della figlia. L'eco dei risvegli di un tempo. Nel rifugio di legno l'uomo era solo. Moglie e figlia non c'erano più, uccise dalla sete di sangue che aveva arso la frontiera molti anni prima. Da allora dormiva poco e si svegliava sempre prima della luce del giorno. Si levò senza fare rumore. Lanciò un'occhiata di sbieco all'immagine della Vergine, ritagliata da un almanacco francese, dono del vecchio istitutore, padre Guillaume. L'artista aveva dato alla Madonna vaghe sembianze indiane. Raccolse un libro dal tavolo, si avvolse in una coperta e uscì. Il cielo era rosa e azzurro. La nebbia saliva a banchi dalla terra, resa più densa dalla mezza luce del mattino. Il sole era a picco quando tre figure emersero dalla macchia in fondo al sentiero. L'uomo smise di affilare il coltello sulla cinghia di cuoio e prese il fucile. Negli ultimi tempi i boschi erano tornati pericolosi. Tra i coloni isolati, pochi si affidavano ancora alla mira per difendere se stessi e le proprietà. In molti avevano eretto palizzate, ma l'uomo non era un colono. E aveva poco da difendere, bastava il fucile. Riconobbe i visitatori e abbassò l'arma. Ronate Rionte, io sono tuo fratello, disse uno di loro. L'uomo rispose al saluto. Anche io sono tuo fratello, Thayendanegea. Joseph Brant presentò gli altri. Ricordi Jacob Kanatawakon e August Sakienakenta? I due guerrieri salutarono con brevi cenni del capo, mentre appoggiavano i fucili. Viaggiamo da 2 giorni, disse Joseph. L'uomo spalancò l'uscio. Entrate, ho del cervo stufato. Joseph contemplò l'interno del capanno di tronchi. Il legno annerito sembrava nascere dalla terra. Una trave carica di volumi attraversava la parete. Riconobbe l'Ingenuo di Voltaire, gli Esercizi spirituali di Sant'Ignazio, la Bibbia e l'Emilio di Rousseau, titoli che venivano da New York, barattati con pellicce pregiate. Philippe Lacroix, Ronate Rionte, non era un cacciatore stagionale. Viveva nei boschi anche d'inverno. Da oltre 10 anni si costringeva a un ritiro inusuale per un indiano. Joseph fissò il vecchio compagno d'armi. Da quando aveva compiuto quella scelta, poco dopo la fine della guerra, la loro amicizia giovanile era sfumata fino a sopravvivere nel ricordo. Si chiese cosa ne fosse rimasto. Un filo sottile quanto un crine di cavallo. Ancora non capiva perché Lacroix fosse apparso nei sogni di sua sorella. È Molly che mi manda. Come sta? È in buona salute. Ha lasciato Johnson Hall e ha aperto un emporio al villaggio. I suoi figli? Crescono. Peter è un uomo ormai. Lo porto già a caccia. I tuoi? Anche i miei crescono. Susanna è una buona madre. Joseph raccolse una delle ciotole che Lacroix aveva riempito di carne. Jacob e August ringraziarono e presero a mangiare senza complimenti. Lacroix rimase appoggiato alla mensola del camino. I capelli gli cadevano sulle spalle come ali di corvo. Una croce di legno intagliato pendeva sul petto. Il volto non tradiva emozioni. I tratti decisi potevano appartenere a un indiano o a un mezzosangue. Forse al figlio bastardo di un coureur du bois. L'età era difficile da definire, anche se Joseph sapeva che erano coetanei. Hai saputo del Massachusetts? Lacroix non rispose. Joseph fece un gesto a indicare il nord-est. Gli inglesi Whig hanno messo assieme un'armata per combattere il loro re. Lo chiamano esercito volontario, assediano Boston e muovono guerra al Canada. August e Jacob si erano serviti di nuovo, senza dire una parola. Joseph li aveva scelti per quello. Erano svegli e discreti. Poteva fidarsi di loro. I coloni di Albany appoggiano la ribellione. C'è il rischio che attacchino la valle. Spie e assassini battono le nostre piste. Un messaggero che abbiamo inviato agli Oneida è stato ucciso, scorticato vivo. Joseph aspettò la reazione del cacciatore. Perché sei venuto? Chiese Lacroix. Guy Johnson vuole convocare un concilio per chiedere alla lunga casa di schierarsi con il re. Lacroix gettò un altro ramo secco nel fuoco. Hai detto che ti manda Molly? Sì, ha fatto un sogno. L'altro annuì, come si aspettasse di sentirselo dire. Joseph gli porse il bracciale di wampum. «Mi ha detto di restituirti questo». La Croix lo tenne tra le mani, fissandolo a lungo. Le conchiglie bianche e nere componevano rombi e lune intorno a una testa di lupo. Un bottone dorato spiccava nella trama. Proveniva da un uniforme dell'esercito francese, l'uniforme di un tamburino. Joseph sapeva che quell'oggetto era il pegno d'adozione nel clan del lupo. Lo aveva intrecciato Molly per il ragazzo che i preti francesi avevano battezzato Philippe Lacroix. I Mohawk gli avevano dato il nome di un caduto, Ronate Riconte, tiene fede e una madre vedova da accudire. Il bracciale rappresentava la nuova vita, quella che Molly stessa gli aveva donato quando lo aveva sottratto alla vendetta dei guerrieri. Joseph ricordava bene quel giorno, anche se era un ragazzino. Il giorno della morte di Hendrik e della ferita al fianco di Warraghilla Gay. La battaglia sul lago George era valsa a William Johnson il titolo di baronetto. Philip aveva imparato la lingua in fretta. Alla missione, dove era cresciuto, vivevano molti Caughnawaga, che parlavano un dialetto simile al Mohawk. Insieme, lui e Joseph avevano ricevuto l'iniziazione guerriera e combattuto fianco a fianco fino al termine del conflitto, come giovani lupi. A guerra finita, Sir William aveva fatto studiare Joseph e si era unito a sua sorella. Philip invece aveva preso moglie, gli era nata una figlia, una breve stagione di serenità. Dopo la tragedia aveva compiuto atti terribili. Da allora Huron e Abenaki lo chiamavano Le Grand Diable. Un giorno si era presentato da Molly e, senza una parola, le aveva consegnato il bracciale di wampum, rinunciando alla vita che gli era stata donata. Si era trasferito lì. Tornava a Canajoharie un paio di volte all'anno per vendere pellicce, guardato con timore da chi aveva conosciuto la guerra e con reverenza dai giovani, attratti dalla leggenda. Molly dice che è tempo che torni alla nazione. Dice che il sogno significa questo. Il cacciatore sedette su una vecchia sedia tarlata, continuando a fissare la cinta di conchiglie. Quando la Croix alzò lo sguardo, Joseph provò inquietudine. «Partiremo con la luna nuova. Il concilio si terrà a Oswego». Aveva riferito il messaggio. Ora aveva fretta di mettersi sulla via del ritorno. Mancavano pochi giorni alla partenza e c'era ancora molto da fare. Fece segno a Jacob e a August di alzarsi. «Noi torniamo indietro. Grazie per il cibo». Quando furono di nuovo sulla soglia di casa, Joseph si voltò. «Molly vorrà sapere la tua risposta». La Croix annuì ancora. «Dille che vorrei che i miei sogni fossero chiari come i suoi».